La struttura è cambiata poco, però come sempre quando una struttura ha dovuto fronteggiare una crisi forte si vede che appunto è stata capace di resistere. Un anno fa si parlava di crollo della zona euro, di uscita, come ha detto lei, di taluni stati membri. Adesso si dovrebbe invece ricordare che non è vero che c'è la zona euro e l'arresto. C'è la zona euro, poi ci sono una serie di stati che vogliono entrare nella zona euro, è il caso per esempio della Polonia, eccetera. L'unico paese che veramente non ci vuole entrare è il Regno Unito. La Danimarca, non è il momento perché il governo vorrebbe fare un referendum per entrare nella zona euro e ovviamente un referendum in questo periodo di crisi, avrebbe degli esiti, probabilmente negativi. Però la Danimarca ha sempre in prospettiva di entrare nella zona euro, anche la Svezia e tutti gli altri non ci sono non per scelta, ma perché non hanno ancora raggiunto, i criteri economici per parteciparci. E vogliono parteciparci, l'abbiamo visto bene quando è stato adottato un trattato di cui si è molto parlato, quello del Fiscal Compact, che appunto, a parte il Regno Unito e poi la Repubblica Ceca per ragioni legate solo alla personalità del suo Presidente della Repubblica, tutti gli altri hanno voluto firmare questo trattato per dire ma oggi non siamo nella zona euro, però nel futuro ci saremo. Quindi credo che questo dovrebbe essere sottolineato.